Come immagine, sì, perché uno usa gli animali, allora l'avvoltoio viene subito. Vabbè, comunque, questo però era un modo per dire che, insomma, ci sono delle strategie. Ecco, non ve la prendete solo biecamente e in maniera becera con la fortuna o la sfortuna, perché, insomma, potete metterci del vostro. Esatto. Bene, andiamo a vedere... finiamo subito in fretta, perché fra l'altro abbiamo parcheggiato un po' lontano. Esatto. Bene. Bene, e a tutti. Il più cordiale. A risentirci. Questo programma è offerto da... Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Radio Zanardi, l'informazione è il nostro pane quotidiano. Solo nome, tante soluzioni. Se anche tu non hai ancora aggiornato il tuo registratore di cassa alla nuova normativa o devi passare al registratore telematico, scegli i professionisti di Matrix Tecnologie. Matrix Tecnologie, l'esperienza decennale e un team giovane e dinamico per semplificare il tuo lavoro. Scegli il registratore di cassa di Matrix Tecnologie per le province di Modena, Bologna, Ravenna. matrixtecnologie.com. Nel cuore della zona universitaria, in via Belmeloro 1-C, da 40 anni c'è un'oasi per studenti. Bar Caffè Belmeloro, il luogo adatto per studiare, per pranzare con insalatone e primi, ma anche per una pausa dallo studio e dal lavoro. Tutti i venerdì musica live, uno spazio perfetto per eventi e feste di laurea. E in più c'è lo studio esterno di Radio Città Fujiko. Bar Caffè Belmeloro, via Belmeloro 1-C. Ti aspettiamo! Chiare Lettere presenta Una moneta chiamata fiducia. Domenica 24 novembre alle 17 nel salotto del Cinema Odeon in via Mascarella 3, la presentazione del libro di Daniel Tarozzi che racconta l'esperienza vincente di Sardex. Dialogano con l'autore Franco Contu, co-founder di Sardex, e Paolo Piras, amministratore di Liberex. Una moneta chiamata fiducia. Domenica 24 novembre, via Mascarella 3 a Bologna. Dal 1986 ci prendiamo cura delle vostre case. Siamo un'azienda specializzata in ristrutturazioni, pratiche amministrative, certificazioni energetiche, falegnameria, impianti elettrici e climatizzazione, pavimenti, bagni e cucine, tinteggiatura, gazebi, porte e finestre. Chiaccio Casa, la vostra abitazione dalla A alla Z, anche per piccole riparazioni, garantendovi esperienza, affidabilità, prezzi giusti e rispetto dei tempi, incentivi fiscali fino al 65%. Chiaccio Casa, showroom in via della Barca 21 a Bologna, 051 61 78 281 o ciacciocasa.it. Case a misura di famiglia. Buongiorno a tutti voi per questo venerdì 15 novembre. La città si risveglia in qualche modo con un pensiero dolce, quello della piazza di ieri sera che, diciamo, nella prima battaglia ha battuto Salvini con una goleada. Di questo parleremo e delle sardine che sono insardinate in tantissime in Piazza Maggiore parleremo più avanti, ovviamente in rassegna stampa, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi venerdì 15 novembre 2019 con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato come di consueto il mercoledì e il venerdì alle notizie dall'Africa e dall'Europa. Cominciamo dall'Africa, cominciamo dal Kenya, dove si è conclusa ieri la conferenza ONU sulla popolazione e lo sviluppo, a 25 anni dalla prima che si era svolta al Cairo. Il tema è sempre quello di governare la crescita demografica. In questo campo, si è detto durante la conferenza, ci sono stati dei risultati. Si è passati da una media di 2,8 8 figli per donna a una media di 2,5. Ci sono però zone dove la popolazione è stabile e altre in continua crescita, complici anche gli 89 milioni di gravidanze indesiderate ogni anno nei paesi in via di sviluppo. Se l'obiettivo è una stabilizzazione globale, non c'è che un modo: fare meno figli. Come? Educazione sessuale, contraccettivi e prosperità economica, ha risposto la conferenza. Se l'ultimo punto sarà il più difficile da realizzare, per gli altri due la maggior parte dei paesi presenti si è detta disposta a fare del proprio meglio. Per seguire tutti i temi affrontati e le diverse risposte politiche e sociali, vi rimandiamo però al link che trovate sul nostro sito. Guinea Conakry continuano le manifestazioni di protesta contro l'eventuale candidatura del presidente Alpha Condé a un terzo mandato. Ieri un ragazzo di 19 anni è morto mentre cercava di sfuggire dalle cariche della polizia, ma è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Almeno 18 civili sono stati uccisi dal 14 ottobre, quando sono iniziate le proteste. Decine di persone sono state ferite e centinaia arrestate. E sempre in Guinea, la Société Minière de Bokké, formata da investitori asiatici e locali, ha reso noto di aver ottenuto la concessione dello sfruttamento di 2 dei 4 blocchi della miniera di Simandou, considerata il più grande giacimento al mondo di ferro. Gli altri 2 blocchi sono già assegnati a una società cinese e all'anglo-australiana Rio Tinto. La Società Minière de Bokké ha garantito che trasporterà il materiale fino al porto di Matakong e che per questo costruirà, senza costi aggiuntivi, una ferrovia di 650 chilometri. La miniera di Simandou è nota per essere stata al centro di numerose inchieste per corruzione che hanno riguardato non solo la Guinea, ma anche Israele, Francia, Svizzera e Regno Unito. Sudafrica, mercoledì il tribunale di Pretoria ha dato un ultimatum di 3 giorni ai rifugiati che occupano la sede dell'Alto Commissariato per i Rifugiati. Se in questo lasso di tempo non saranno andati via, verrà usata la forza. Anche il governo ieri ha ripetuto l'invito, mentre trattative sono state intraprese con la polizia per evitare uno sgombero violento. To have official permission from UNHCR, because these are mandate to protect refugee. As the neglect to protect refugee, we have to enter inside, because this is our compound. We are not disturbing people outside again, we are in our compound, because they are mandated to protect refugee and we are refugee. In una propria dichiarazione, l'Alto Commissariato ha chiesto una risoluzione pacifica della protesta. Siamo impegnati in un dialogo con i manifestanti, ha detto la portavoce Hélène Coe. Vogliamo evitare qualsiasi atto di violenza, li invitiamo a liberare i locali e contribuire a trovare soluzioni praticabili. Tunisia, protesta delle donne mercoledì in occasione della prima seduta del nuovo Parlamento. La protesta era diretta contro la presenza nell'assemblea di un deputato accusato di molestie sessuali. Aujourd'hui le nouveau parlement va siéger e dans ce parlement il y a un élu qui a été pris en flagrant délit, qui est un harceleur. Il a harcelé une jeune fille, une élève, et cette personne-là ne doit pas rester aujourd'hui. L'uomo, eletto nello stesso partito di Nabil Karoui, ex candidato sconfitto alla presidenza, è stato filmato mentre, pantaloni aperti in macchina, tiene in mano il proprio organo sessuale davanti a un liceo. 3 giorni dopo la diffusione del video, avvenuta l'11 ottobre, è stata aperta un'inchiesta contro di lui. Chi ha diffuso e condiviso il video ritiene che l'uomo stesse masturbandosi di fronte a delle adolescenti. Lui, per mezzo dei suoi avvocati, ribatte che stava solo urinando e di averlo dovuto fare a causa del diabete. Nel frattempo la vicenda è andata al di là dell'uomo, con decine di testimonianze di donne vittime di molestie e aggressioni. Sulla scia del MeToo, sulle reti sociali tunisine, è nato l'hashtag Enaseda, che significa esattamente la stessa cosa. La Banca Africana di Sviluppo non ha intenzione di finanziare il progetto di centrale elettrica a carbone in Kenya, un controverso progetto per il quale sono intervenuti anche i tribunali locali. La centrale dovrebbe essere infatti costruita nei dintorni di un parco che è patrimonio UNESCO, e la scelta del luogo aveva portato proteste sin dall'annuncio. Non è detto però che la decisione della Banca Africana di Sviluppo possa bloccare il progetto, ma intanto è l'annuncio di una nuova politica da parte dell'organismo finanziario: stop al sostegno al carbone dopo aver speso nell'ultimo decennio 1,5 miliardi di euro, e più soldi invece per l'energia non inquinante. Un servizio della BBC di questa settimana le ha reso omaggio facendola conoscere al di fuori del circuito musicale di riferimento. Lei è Mina, o meglio Minala Wole, la velata, per via del foulard intorno al viso che non toglie nemmeno in scena. Senegalese appassionata di hip hop, Mina è unica nel suo genere. Racconta di portare il velo sin da piccola e di non capire perché dovrebbe toglierselo. Di mettere le peruche alla place de se raser, alla place de mettre des casquettes. Mon voile, c'est mon style. Quand je suis Mina, je suis ni chrétien, ni musulman, ni animiste et tout. Je suis juste artiste musicienne. È il mio stile, dice. Quando sono Mina, non sono né musulmana, né cristiana, né animista, sono soltanto un artista. Chi mi insulta non ha capito il messaggio che voglio dare. En tant que femme, je me suis dit qu'il y a des thèmes que je pourrais plus aborder que les hommes. Par exemple, le mariage précoce. Mina dice di fare anche delle battaglie femministe, dice penso che ci sono temi che io possa affrontare grazie alla musica, come quello della violenza sessuale, dei matrimoni precoci. Ci sono sempre più spesso ragazze violentate che vengono colpevolizzate. Io credo che la vergogna debba cambiare di campo. È chi violenta che commette un reato. Europa, Francia, nuova manifestazione sindacale contro Emmanuel Macron. A scendere in piazza stavolta il personale ospedaliero che di fatto ha obbligato il presidente francese ad annunciare un piano d'emergenza da portare in Consiglio dei Ministri il prossimo mercoledì, mentre in Senato si discute ancora sul Plan Santé 2022, quello che appunto viene contestato in piazza. Manifestazioni si sono svolte in tutta la Francia, facendo seguito a settimane di mobilitazione. Le rivendicazioni riguardano i salari, la richiesta di nuove assunzioni e un aumento dei posti letto per decongestionare gli ospedali. Macron ha promesso di rispondere alle richieste e sarà il premier Edouard Philippe a comunicare il 20 novembre l'ammontare delle somme a disposizione e i tempi per realizzare le riforme. Aujourd'hui, j'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Ma di qui a poche settimane Macron dovrà occuparsi di un altro tema, quello delle pensioni, con una manifestazione annunciata per il 5 dicembre che potrebbe essere la più imponente dell'anno, stando ai sindacati che l'hanno organizzata. Kosovo, la commissione elettorale ha deciso che il conteggio dei voti delle elezioni che si sono svolte 6 settimane fa deve essere rifatto. Non tutto, ma quasi. A essere coinvolte sono oltre la metà delle sezioni, che rappresentano però il 90% dei votanti. Il motivo è la denuncia di Nisma, partito che non ha superato la soglia di sbarramento. Il risultato finale, che comunque non cambierà il vincitore delle elezioni, dovrebbe arrivare tra una settimana. Austria, nuovi problemi per il Freiheitliche Partei Österreich, dopo che è arrivato ovunque il brevissimo video in cui un suo capo locale nel distretto di Losdorf è colto nell'atto di fare il saluto nazista urlando il nome di Hitler. Ieri il pubblico ministero ha deciso per l'avvio di un'indagine preliminare per indagare se ci siano reati, mentre il partito ha annunciato l'espulsione e parlato di casi isolati che non devono trovare spazio. Ma i socialdemocratici ribattono che nell'ultimo anno sono circa 300 i casi isolati. Slovenia, la riunione di mercoledì del Consiglio di Sicurezza Nazionale, organismo consultivo di coordinamento dell'esecutivo, ha imposto al governo di legiferare al più presto affinché sia impedito alle bande paramilitari di estremisti di pattugliare il confine e usare violenza sui migranti. Un video della Reuters ha mostrato pochi giorni fa una realtà ben conosciuta, quella dei gruppi di ispirazione nazista che si sono autoassunti il compito di fare le veci della polizia di frontiera. Agli ordini di un ex politico di estrema destra, armati in tuta mimetica, svolgono regolarmente sessioni di allenamento e turni di appostamento. Finora la polizia non li ha bloccati perché sostiene di non aver trovato nulla di illegale. Così è partito l'ordine del Consiglio al Ministro degli Interni e della Giustizia. Se non si possono fermare perché non c'è una legge che dica che questo è legale, fate la legge. E passiamo alla Germania. Il numero 13 non ha portato fortuna all'associazione Eiche di Jena in Turingia, che ogni anno, da 13 anni appunto, organizza il suo incontro alternativo sui cambiamenti climatici. Stavolta l'hotel di Monaco, dove si sarebbe dovuta tenere la conferenza, si è tirato indietro citando problemi di sicurezza e ha disdetto la prenotazione. Nel comunicato dell'hotel si legge che il problema è l'eccessiva polarizzazione dell'evento, il rischio cioè che prese di posizioni così radicali possano provocare reazioni e manifestazioni. Sabato scorso attivisti dell'anticapitalistisches Klimatreffen avevano indetto un'azione di protesta davanti e dentro l'albergo e evidentemente questo è servito. L'associazione AIKE sostiene che i cambiamenti climatici non siano causati dalle attività umane ed è strettamente legata al partito di estrema destra di Alternative für Deutschland. AIKE è la controparte tedesca dell'American Earthland Institute, finanziato tra gli altri dalla compagnia petrolifera Exxon. Danimarca ha presentato e respinta ieri una petizione di 56.000 cittadini che chiedevano soluzioni stabili e veloci per le 134 persone che vivono nel campo di Jelsmark, una trentina di chilometri a nord di Copenaghen. Nel campo sono presenti famiglie e numerosissimi bambini. La loro sorte è uno dei temi che si stanno affrontando in questi giorni nei colloqui tra socialdemocratici e radicali per la presentazione della legge finanziaria, dove dovrebbero essere trovate delle coperture anche per questa situazione. A maggio i due partiti avevano trovato un accordo di massima per dare una risposta alle famiglie del campo, ma poi non se n'è fatto più nulla. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Vi saluto e vi lascio con il resto dei programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna. Vi lascio con il resto delle nostre rubriche per chi ci ascolta online. Appuntamento a domani con il notiziario orientale a cura di Serena Console. Una buona giornata, un buon fine settimana. Jazz, un gruppo importante degli anni 70, ma veniamo invece al VAG, perché da oggi a domenica torna a contrattacco il Festival di Letteratura Sociale di Alegre. Radio Città Fujiko seguirà in diretta in streaming l'evento, ma in questi giorni vi stiamo anticipando anche il programma. Nella terza ed ultima serata, quella di domenica 17 novembre, si parlerà di cambiamenti climatici con Giulio Calella di Giacobini Italia. Ascoltiamo le sue parole. Allora, domenica innanzitutto il pomeriggio dalle 16 avremo la presentazione dell'ultimo numero di Giacobini Italia, che ha al centro come tema la questione della crisi ambientale. Il titolo è Apocalypse No, il numero è il numero 4 della rivista, che è la versione italiana della rivista americana Giacobin, e ne discuteremo con alcuni membri della redazione, tra cui io stesso, Gaia Benzi e Lorenzo Zamponi. Tra l'altro la redazione di Giacobin si riunirà proprio al VAG durante le giornate di contrattacco, quindi per noi è anche un luogo di elaborazione, diciamo, della rivista. E con noi discuterà Andrea Gelfi, ricercatore dell'Università di Nottingham, e Marta Sottoriva, che è una delle attiviste del Venice Climate Camp. È particolarmente importante questa presenza anche per questi giorni, quello che sta succedendo a Venezia, che è uno degli elementi che richiama da un lato gli effetti della crisi climatica di cui discutiamo nel numero, e dall'altro anche le reazioni. C'è tutta la discussione che adesso si fa sul MOSE, è un po' su quella che Naomi Klein definisce shock economy climatica, cioè il tentativo di imporre false soluzioni che poi di green non hanno molto. E il numero si concentra anche molto su questa discussione, cioè su che cos'è il Green New Deal americano, su che cosa sono invece politiche di puro greenwashing e che cosa, come si può in qualche modo pensare di affrontare questa crisi climatica cambiando complessivamente il modello produttivo e non soltanto interrogando i comportamenti individuali. E infine, come si può provare a intrecciare quella che è l'esperienza di Fridays for Future, del movimento ambientalista nato sulla scia di Greta Thunberg, che sta coinvolgendo tanto il mondo studentesco, con quelle che sono le storiche battaglie dei comitati ambientali anche nel nostro paese. Venezia è una di queste battaglie, certo. No MOSE, no Grandinate, eccetera. Tra l'altro, Giacobin è stato lanciato proprio l'anno scorso a contrattacco. E com'è stato questo primo anno? Esatto, sì, l'anno scorso a contrattacco, proprio di questo periodo, facemmo la presentazione in anteprima del primo numero. E è stato un primo anno entusiasmante, diciamo, per noi, per me in particolare, mi ha anche travolto la vita, l'impegno, eccetera, però è stato oltre le nostre aspettative, perché siamo riusciti ad avere un numero di abbonati impensabile nelle nostre riunioni di un anno fa al VAG, quindi con migliaia, diciamo, di abbonati, di numeri venduti in libreria, centinaia di presentazioni, gruppi di lettura che sono nati spontaneamente in giro per l'Italia intorno alla rivista. E quindi questa idea di provare intorno a una rivista politicamente plurale, a rimescolare un po' le culture politiche di ciò che è rimasto della sinistra radicale italiana, però partendo appunto non dalle organizzazioni ma dalle idee, da una progettazione appunto culturale, intellettuale, dall'utilizzo di diversi linguaggi, dall'utilizzo anche molto del linguaggio grafico, delle infografiche. Ovviamente non tutti i numeri siamo soddisfatti nella stessa misura, ma complessivamente sì, diciamo che il lavoro è andato molto bene anche sul sito, e adesso appunto è il momento anche di rilancio e per molti, per i 2500 preabbonati, quelli che si abbonarono a scatola chiusa già un anno fa prima di vedere in mano il prodotto, è anche il momento del rinnovo. Quindi ne approfitto anche per ricordare a tutti e a tutte che se vogliono ricevere a casa, se sono abbonati, vogliono ricevere a casa il numero 5, è il momento, diciamo, di rinnovare l'abbonamento. Quindi sì, sarà questi tre giorni al VAG per la redazione di Giacobini Italia, sarà anche un momento di ridiscussione, di bilancio di questo anno, oltre che di elaborazione dei nuovi numeri in uscita per il 2020. Una casa non sono solo quattro mura. Una casa è famiglia, è amore, speranza, gioia, gioco, schiamazzi, allegria. La vostra casa per noi è la cosa più importante. Per questo ce ne prendiamo cura ogni giorno. Ciaccio Casa, un'azienda di professionisti per ristrutturare con progettazione 3D in omaggio, pratiche amministrative e certificazioni energetiche, falegnameria, impianti elettrici, climatizzazione, pavimenti, piccole riparazioni, incentivi fiscali fino al 65%. Ciaccio Casa, dal 1986 a Bologna, showroom in via della Barca 21, 051 61 78 281 o ciacciocasa.it. Ciaccio Casa, a misura di famiglia. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. Ieri ho fatto uno scrub rilassante con pietre calde, settimana scorsa sono andata a Saint-Tropez al party della contessa e giovedì ero a Napoli dai miei amici stilisti e oggi mi sembra tutto monotono. Io invece, seduto comodamente sul divano, mi sono bevuto un'ottima birra artigianale che ho acquistato da Beer for Bunnies. E oggi? E oggi torno a prenderne altre e magari mi compro anche l'attrezzatura per farmele in casa. Dove hai detto che è? Beer for Bunnies, via del Pratello 10 a Bologna. È aperto fino alle 22, così eviti Sirio. Cerca la pagina Facebook. La nostra missione è prenderci cura dei bolognesi. Al poliambulatorio privato Ionoforetica effettuiamo visite con tutte le mutue private come Unisalute, Fasi, Emec e Campa. Chiedi al tuo datore di lavoro con quale mutua privata la tua azienda è convenzionata. In questo modo le visite e gli esami non li paghi, oppure paghi una piccola franchigia ed il resto è a carico della mutua. Per prenotazioni telefona al numero 051 314 0488 oppure contattaci su Messenger di Facebook cercando Ionoforetica. Poliambulatorio privato Ionoforetica, via Lemonia 47, Bologna. Sito www.ionoforetica.it. Direttore sanitario, dottor Francesco Comerci, specialista in urologia. Questo programma è offerto da... Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Venerdì 15 ottobre, 9:31 in questo momento, la rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi, che apre però con un collegamento con l'esterno, perché abbiamo al telefono il nostro direttore Alessandro Cannella, che è in missione speciale, ovvero parliamo di centri sociali a Bologna. Ciao Alessandro, dici tutto. Buongiorno Alfredo, buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Sì, oggi è un giorno particolare perché è il 15 novembre e il 15 novembre era una deadline, diciamo così, di un accordo preso lo scorso agosto quando appunto fu sgomberato con le ruspe XM24. E è andata avanti una trattativa che si è rivelata ben presto, come dire, abbastanza falsa, con il comune che ha proposto un posto irricevibile a XM24 e di fronte a questa non proposta, potremmo definire così, attivisti e attivisti hanno agito di conseguenza. Io mi trovo in Bolognina, in via Ferrarese, dove stamattina appunto nell'ex caserma Sani si è formato un presidio e sta nascendo un nuovo spazio. Io sono qui con Andrea di XM che se volete insomma vi faccio due domande. Certo, vai. Allora, cosa sta succedendo intanto? Ciao, intanto buongiorno a tutte e tutti. Sì, allora, come Assemblea XM abbiamo deciso di entrare dentro uno spazio abbandonato da decenni di questa città, che appunto è l'ex caserma Sani, per riaprirlo e ridare spazio appunto, riprendere uno spazio per continuare e riprendere i nostri laboratori. Sappiamo appunto, come diceva prima Alessandro, come questo 15 novembre fosse la deadline che il comune si era impegnato a mantenere per trovare uno spazio adeguato ad XM24. Sappiamo anche che l'ultima proposta che è stata fatta, che era appunto in via Zanardi, non era minimamente adeguata. Era sostanzialmente una proposta fatta per essere rifiutata. Dopo il rifiuto di tutte e quattro le proposte portate avanti dal XM24 con una serie di fascicoli con tutti i dati e le cose che potevano servire per rendere fruibili degli spazi, che è stata appunto rifiutata senza nessun tipo di motivazione reale, e quindi abbiamo deciso appunto di agire e di riaprire questo spazio dell'ex caserma Sani per appunto fare quello che abbiamo promesso, cioè riprendere il prima possibile le nostre attività, ma non solo, anche ampliarle, comunque lo spazio è grande, e, appunto ci sono tantissime possibilità e come rinascere come luogo di cultura, come luogo di socialità, come luogo di incontro, come luogo di politica nel senso di quello del terzo. Ecco, questo spazio era tra i quattro che avevate individuato? Sì, sì, sì, era uno dei quattro su cui era stato depositato, per cui era stato depositato un fascicolo in comune. Sì, era uno dei quattro che il comune aveva rifiutato dicendo non è di nostra competenza. E, perché è del demanio, giusto? Sì, sì, sì, sì, è del demanio, Cassa Depositi e Prestiti. E, quindi appunto l'abbiamo scelto anche per la sua interità al quartiere, per una serie di motivazioni, e quindi da oggi in poi vogliamo che abbia più vita possibile e che restituisca vita anche al territorio stesso intorno. E facendo questo dimostriamo appunto anche come riappropriarsi non solo degli spazi ma anche delle pratiche che ci vengono sottratte di giorno in giorno con la deriva securitaria di questo paese è possibile. In questa moneta, ma insomma l'importante appunto è che c'è una spinta forte. La città ha esigenza di spazio, la città ha esigenza delle situazioni 24, è stato dimostrato da sempre, ma in particolare negli ultimi mesi, dal 29 giugno partecipatissimo allo sgombero del 6 agosto, che è stato qualcosa di incredibile, con un affollamento totale per una Bologna solitamente vuota d'agosto, a tutte le iniziative che ci sono state, diciamo, di raccoglimento, quindi di raccolta delle porte, mettiamo così, dai presidi sotto al comune durante gli incontri della trattativa, la biciclettata, le passeggiate in Bolognina. E questo appunto ha dimostrato come l'attenzione della città e la tensione della città verso il 2024 è ancora altissima e fortissima. La città, la Bolognina, vuole questo spazio. E questo spazio riapre. Riapre mantenendo un impegno preso che il comune non ha mantenuto, ma noi invece lo manteniamo. Fa un po' politica triste dire questa cosa, ma è così. Senti, ma ci sono già degli appuntamenti, assemblee, incontri? Allora sì, intanto pianiamo per stasera alle 18 un'assemblea pubblica, quindi speriamo sia il più grande e partecipata possibile. E vi invitiamo quindi tardi insomma a passare. E vi invitiamo a passare sul sito che, su cui appunto a breve sto uscendo il comunicato con cui spieghiamo tutte le nostre motivazioni in maniera più precisa, a seguire i nostri aggiornamenti su Mastodon. Mastodon è sfida / XM24. Abbiamo anche una landing page che è la stessa dello sgombero, quindi autistici.org/XM24 resiste. Da lì trovate tutti i nostri canali, tutte le info di cui avete bisogno per seguire l'aggiornamento. Ovviamente vi invitiamo a venire al presidio che si sta raccogliendo e che è già numeroso e nutrito in Ferrarese 199, ci arrivate comodo di quella bici, quindi non ci avete scusa. Non piove neanche tanto, per cui dagli da paura. E forza, quindi i prossimi giorni saranno pieni, saranno carichi, a breve uscirà anche un programma e dai forte. Perfetto, allora ringraziamo Andrea di XM24, ovviamente seguiremo l'evolversi anche di questo, della nascita di questo nuovo spazio. Io per adesso, Alfredo, ti ringrazio e noi ti ringraziamo davvero per questo aggiornamento. Ciao Alessandro e buon lavoro. Grazie Tristan. Beh sì, il XM24 torna dunque a vivere e che è il segnale di una vivacità di Bologna che tra associazionismi, centri sociali, volontariato ha mantenuto comunque, anche se orfana, anche se sottoterra, sotto traccia, un dibattito, una relazione cittadina che ha fatto sì che la città percepisse il fenomeno Salvini non come un problema degli immigrati, degli zingari, dei centri sociali, ma come un problema ad ognuno di noi, un attacco al nostro modo di vivere. E quindi la città ha reagito, la città civile, quella famosa tante volte chiamata e a volte anche abusata nel nome, questa volta si è fatta sentire proprio da un gruppo di ragazzi di trentenni in sei giorni con un fish mob ha riempito Piazza Maggiore per dimostrare che erano ben più quelli da una certa parte che con quelli che vanno a sentire e hanno sentito Salvini al Palazzo dello Sport. Dunque la prima battaglia Salvini l'ha persa clamorosamente, ha subito una goleada perché il popolo a cui lui si fa sempre appello gli ha dato assolutamente torto. E le foto di Bologna sono tutte non sul Palazzo dello Sport come sperava Salvini, ma sono state rubate la scena da questi democratici, perché è il caso di dirlo, che sono, hanno riempito non solo il Crescentone ma tutta l'intera piazza e oltre. Salvini, 15.000 sardine in piazza, questo è il Corriere di Bologna. Idranti contro i centri sociali, colpevoli di, secondo la polizia, di voler invadere la zona rossa, iscritte stretti intorno al Paladozzo. Il leader della Lega, il 26 gennaio sarà il giorno dell'orgoglio, adesso poi vediamo. Alla fine va filato liscio, dice il Corriere, i riflettori sul Crescentone dove la protesta pacifica fa il sold out dopo tanti anni. E questo è la... E poi è bello che la Lega si è inventata il Paladozzo come simbolo della sinistra Bologna. A me sembra che il Paladozzo sia poi il simbolo del basket, a dimostrazione che in Bologna non sono molto presenti. Comunque lasciamo perdere Salvini, che peraltro aveva molti spalti vuoti dentro il Palasport, e ha detto: ah no, la colpa è dei delinquenti che hanno impedito ai pullman di arrivare. Non mi sembra che nessuna cronaca riporti questa vicenda, ed era un misero alibi. Non hanno riempito il Palasport nemmeno con i pullman che arrivano dalla Lombardia, a dimostrazione che l'elettorato leghista, che è tanto, ma non è un elettorato attivo, è un elettorato che nella solitudine guarda la TV, legge il Carlino e poi magari nella cabina del voto fa il disastro. La piazza delle 15.000 sardine è invece una cosa completamente diversa, un successo, la protesta partita dal basso, giovani e anziani insieme alle note di Dalla tra slogan e striscioni, politici e società civile, che speriamo, ma purtroppo è già cominciato, che non ci sia la corsa a metterci il cappello sopra, a fare, come si diceva un tempo, a essere la testa del corteo, a dire: ah tizio, sono più bravo io, tizio meno bravo, eccetera. Questa perché a volte è stata, e senza retorica, una unità di popolo. Ma comunque vediamo per adesso il Bonaccini, che è il candidato governatore al centro-sinistra. Qui c'è gente che non ricerca padroni nei liberatori, Merlo e Zingaretti, Bologna bellissima. Mentre il Manifesto, primo match preelettorale, a Bologna vincono le sardine, Salvini lancia Borgonzoni, 10.000 in piazza rispondono, l'Emilia non si lega, in corteo anche i centri sociali, tenuti a distanza da Paladozzo con gli idranti. E anche il Fatto Quotidiano, Bologna non ha bocca, 13.000 sardine anti-lega, Piazza Maggiore strapiena, più che raddoppiato l'obiettivo degli organizzatori che volevano sfidare Salvini. E poi per chi come me e come tanti altri era in piazza, era curioso vedere, ognuno c'era fatto il suo pesce da casa, quindi questo unire anche il gioco, la felicità, la gioia, la politica, non è poi così sbagliato, non è solo una cosa triste da talk show o da cronache nere dei giornali. Il Corriere Nazionale questa volta, perché anche le pagine nazionali, la piazza di Bologna ha rubato la scena a Salvini, che sarà furibondo, anche perché ha perso anche sui social, che sappiamo è un cavallo di battaglia di Salvini. Gli organizzatori hanno avuto molti più social, molti più contatti che non quelli del leader della Lega. Comunque, e comizio del leader, i flash mob degli oppositori entrati sul corteo dei centri sociali. Il Carlino evidentemente aveva battezzato a priori, prima ancora che uscisse qualcosa, che la giornata era di Salvini, quindi scrive in prima pagina bandiera verde: Salvini e Bologna al Paladozzo, luogo simbolo della sinistra, appunto, che è il simbolo della sinistra di Paladozzo, non mi risulta tanto, comunque giusto, si chiama DOS perché fu fatto negli anni 60. Ma detto questo, Bologna ha altri simboli magari che non la sinistra. La piazza dice no al Carroccio, però è costretto a dire anche il Carlino, seppur in terza pagina. Mentre il Carlino Bologna preferisce andare sul classico, acqua sul fuoco, e con la foto dei manifestanti colpiti dagli idranti, quelli dei centri sociali, che naturalmente poi non si vedono particolari violenze, ma comunque le forme del dissenso, Andrea Zanchi, gli estremisti solo un danno per la città. Questo è l'articolo di fondo del Carlino Bologna, ma chiaramente scritto addirittura per me alle 6 del pomeriggio, neanche dopo gli avvenimenti successi. E passiamo a Repubblica, perché anche Repubblica appunto in prima pagina parla della Bologna che resiste, oltre 10.000 persone in piazza, Maggiore sfidano il leader leghista che fatica a riempire il Paladozzo, avviso al governo, se vinciamo anche in Emilia Romagna qualcuno a Roma dovrà prenderne atto, mi sa che appunto questa cosa non avverrà, si spera. La città risponde con la folla delle sardine che cantano Bella Ciao. A pagina 2-3 si prosegue con gli approfondimenti su Bologna. Salvini non fa il pieno, tutta colpa degli squadristi rossi, dichiara. Parte ufficialmente al Paladozzo la campagna elettorale per espugnare l'Emilia, ma non tutti i 5.570 posti sono occupati. La festa della piazza antilega, siamo in 12.000. Il flash mob pacifico delle sardine convocato da 4 ragazzi dopo l'obiettivo di superare i fan del Carroccio. Noi non abbocchiamo, questa è una lezione per la destra. E riprendendo quello che dicevi tu, Alfredo, per quanto riguarda il gioco, unire il gioco e la politica è anche un modo per sentirsi uniti, è un'altra è qualcosa che dà molta molta forza. E, passando invece a Alla Repubblica invece che si concentra su Bologna proprio, anche qui si riprende più Sardine che Salvini, la protesta silenziosa lanciata dai quattro studenti, vincere e ribaltare il governo, alcuni nostri pullman bloccati dai teppisti, è la dichiarazione di Salvini, e poi appunto anche a pagina 2-3 ovviamente si prosegue con gli approfondimenti a riguardo, anzi anche a pagina 5 in cui si parla appunto dei 3.000 antagonisti respinti dagli idranti, il blocco del traffico e le risposte della polizia agli scontri che non sono stati scontri, alle proteste. E passando invece alla stampa, lo ritroviamo Bologna, pagina 8, a Bologna il leader reghista riempie il Paladozza solo con gli emiliani, il numero 2, ormai ci sono due Italie, il palazzo e noi nelle piazze, dalla via Emilia in 6.000 per Salvini, Giorgetti vinciamo. Qui anche qui troviamo una bellissima immagine di Piazza Maggiore piena di sardine, Piazza Maggiore strapiena per dire no alla Lega. E sempre con l'idea del gioco, a un certo punto dagli organizzatori, dal loro tra virgolette palco, si è chiesto silenzio, e tutti con le pesce alzato, un silenzio che non sentì volare una mosca e neanche una sardina. Questo poi è arrivata Bella Ciao, e poi è arrivata anche Come profondo il mare di Lucio Dalla, perché sardine sta nel mare. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Il mare è profondo, e questo ci porta a Venezia, ed è un altro mare. Tra l'altro questa mattina con noi Ilaria, che da quelle parti arriva, quindi buona testimone oculare di vita di quello che succede. Ma apriamo dunque i giornali su Venezia e lo scempio dell'acqua alta. Devo dire che le notizie non sono buone, perché leggo: Venezia peggiora la previsione, marea a 160. La stima di acqua alta viene rivista al rialzo, ahimè, dai 150 centimetri precedenti a 160 sul miglio mare alle 11.20. E quanto si apprende dal centro maree del comune, che poco fa ha attivato le sirene di allarme in città. Attualmente il livello di marea è di 120 centimetri, con Piazza Gianmarco già abbondantemente allagata. Fin qua la nota di agenzia. Poi possiamo guardare anche dei giornali che vanno sull'argomento. Per esempio il Gazzettino torna sul grande imputato, tutti i misteri del MOSE, l'opera bloccata da conflitti e personalismi, anche perché non funziona, quindi e ieri, sempre guardando Piazza Pulita, mettevano a paragone le dighe mobili di Rotterdam e di Londra con quelle del MOSE, con un particolare non ininfluente, che sia in Olanda che in Inghilterra i meccanismi di apri e chiudi le saracinesche sono fuori dall'acqua, rimangono asciutti, mentre gli astuti progettisti del MOSE l'ha messo in fondo al mare, corrosi fin da subito dall'acqua salata. E si immagina che se anche il MOSE, qualora mai funzionasse, fosse attivato, prevede 100 milioni l'anno solo di manutenzione, paratia per paratia. Questo è il danno alla cosa pubblica e ai veneziani di questa opera. Altro che conflitti e personalismi. Il progettista dice: ritardi per gli errori, non per le tangenti. Beh, anche le tangenti comunque sono servite a fare delle opere buone, ma private, non a Venezia ma a Dubai. Comunque, Elisabetta Spitz, super commissario, anche di questo vedremo, perché in Italia si mette un super commissario, arriva il super commissario, battiamo alle mani. Abbiamo già visto altrove i super commissari cosa hanno prodotto. Ma il piano per il governo per Venezia, arrivano i primi 20 milioni, dice il Corriere. Ma non solo i milioni sono arrivati, perché è arrivato anche Berlusconi in quel di Venezia. Lì di Forza Italia è arrivato in Venezia per contrastare i danni e portare la sua solidarietà. E poi dice, e leggiamo dal giornale, sbarchi in laguna paghino i grandi del mondo. Abbiamo già visto anche questo, all'Aquila, quanto hanno pagato i vari Obama, eccetera. Non è arrivato niente, molte promesse. Detto questo, poi trovo di meglio da fare che lanciare Brugnaro, leader nazionale, sindaco di Venezia. E qui l'aria entusiasta, vedo che veramente si mette le mani nei capelli un'altra volta dopo stamattina. Ma ricordiamo che Brugnaro, tra le altre cose, ha tagliato i fondi per l'allarme e la prevenzione del meteo dell'acqua alta. Questo così è un passano, anche se adesso fa il grande accusatore. E allora su queste gente, Venezia gli scarica barile, facce da Mose. Ed ecco qua, a Bagnomaria ci sono Zaia, Berlusconi, Brunetta e Galan. Perché anche Galan, quello che è stato processato per le mazzette, i soldi, la dice la sua, è incredibile, ma questa è acqua alta, facce di bronzo, per non dire di peggio. Berlusconi, Brunetta, Zaia, Brugnaro e persino gli Galan invocano l'eterna incompiuta da 7 miliardi, che è colpa di Lega, Forza Italia e Partito Democratico. Ricordiamo che Galan, ma anche Orsoni, Galan centrodestra, Orsoni centrosinistra. E poi abbiamo sentito dire anche delle cose che in TV poi si sparacchia così, tanto al killer si spruzza di qua e di là. Alice Colò ha detto che ci vuole il MOSE perché pensiamo domenica c'è il rischio di acqua alta. Ora il MOSE non credo che sia pronto per domenica, a prescindere da ogni tipo di ragionamento. Anzi, farsa dighe, dice Giuseppe Petrobelli, pronte solo nel dicembre 2021, quindi l'acqua alta deve aspettare. Da Conte 20 milioni per i primi indennizzi. E le facce da Mose, ecco qua gli uomini del centrodestra, quelli che sono sempre dalla parte della ragione. Berlusconi, Brunetta, Zaia e persino Galan invocano l'opera e cercano altrove i colpevoli dopo anni di disastri di governo. Dice Luca Zaia, quello del Mose è uno scandalo nazionale, 5 miliardi di euro bloccati sott'acqua, la colpa del governo, il cantiere dello Stato. Naturalmente il governo si intende il governo degli ultimi due mesi, perché prima il governo lo stesso Salvini sbraita contro il governo, mi sembra che anche lui è stato al governo fino a poco tempo fa, prima con Berlusconi, poi eccetera eccetera. Comunque, a tutto Mose, dice il manifesto con Riccardo Bottazzo, salto nei vertici, arriva la supercommissaria Elisabetta Spitz, ex direttrice dell'agenzia del Demanio, il sindaco Brugnaro, fan delle grandi navi, lamenta ritardi. Devo dire che le grandi navi non si lamentano con l'acqua alta perché navigano meglio. Comunque, il premier, la barriera è da finire, il decreto legge d'emergenza arriva dal consiglio dei ministri. Questo nel frattempo, mentre c'è questo balletto ignobile, tutti quegli stivaletti, quelli profirmati, chiese, gallerie, libri in rovina, nel Luna Park semisommerso, difficile la stima dei danni. A San Marco l'acqua ha superato il metro e 65 invadendo il Nartece, rompendo le finestre, allargando il pavimento musivo e sommergendo la cripta. Quindi acqua salata certamente non gli fa assolutamente bene. Ma questo, tratto il Mose, è un'opera pensata nell'84, che ovviamente questa è forse l'unica cosa colpa che non c'ha, non poteva prevedere il clima, l'innalzamento dei mari, eccetera, eccetera. E allora Allora, sarebbe comunque sufficiente? È una bella domanda. Le coste italiane ad alto rischio, clima pazzo, catastrofe nel 2050. Mentre i gondolieri che Venezia la conoscono dicono che bisognava fare una cosa molto più semplice, scavare la laguna per farla più profonda, ma invece si preferiscono cose faraoniche, quelle da guerre stellari. Romagna, anche perché sono appalti ben più che non dragare il fondo. Romagna e Toscana nel mirino dell'alta marea. La ricerca shock, venti estremi ogni anno e danni mille volte superiori. L'unica soluzione, dice il Resto del Carlino con Alessandro Farrugia, tagli le emissioni e interventi strutturali rapidi. Finalmente si smette di dire che i ecologisti sono dei catastrofisti malati di immaginazione. Sale il livello del mare, cresce la temperatura dell'acqua che provoca un aumento record delle precipitazioni. E poi c'è appunto uno sguardo ben oltre Venezia, Giacarta, Maldive, gli atolli, Cina e India, isole Faroe. Ma il Sole 24 Ore invece rimane sull'Italia, sempre su questo argomento del mare che si alza. Non solo la laguna, a rischio Oristano, Cagliari e Taranto. Beh, Taranto, devo dire che è a rischio anche per altri motivi, poi lo vedremo. Merlo di Federlogistica, l'Italia sta guardando.